Cannarella. Claudio Cannarella. Andiamo dove andremo, pista. Ulanio. Ciao là. Giulio so. Solo sì. Ciao Giulio, che sei parlato? Con Ulanio. Arriva qua. Io so. Ciao là. E no, stavo spazzolando. Ho sentito il fischio e ti ho riconosciuto. Ed è per quello che ti ho chiamato. Va bene, dai, avanti, riprendi Ulà. Il tuo segnale 5 è abbondante su questo baracchino. Sto uscendo col baracchino con il microfono normale, per cui va bene, dai, la radio già è buona, la radio è ultima, va benissimo. E ora mi sono allontanato un attimino per mettere le cuffie, perché sennò qui è disturbato, perché è la figlia che sta studiando, dunque. E allora mi sono dovuto allontanare un attimo per prendere le cuffie. Avanti ancora ora. Ok. Aspetta, mi sembra che c'è Luca anche su questo canale. Luca, ci sei? Attento Luca. Luca, soldatino, ci sei? No, non riprende, evidentemente si è spostato su un altro canale. Ma non c'è nessuno in frequenza. Sono qua, ci siamo noi e basta. Ok, no, già ci sono, ogni tanto già si fanno sentire. Solo che tante volte, anziché essere 27, sono in PMR, per cui parlano lì, capito? Però ogni tanto già si fanno sentire, sia Graziano che Gio Maria, uguale, no, non c'è problema. Ci sono. Di nuovo come l'altro giorno, Francesco. Ciao Cla. Lo so, come fai a arrivare lì? Non è facile, no? Cioè, PMR non è facile, no? Cazzo. È già un po' difficile arrivare con la 27, figuriamoci con PMR devi avere un apparecchio come si deve e un'antenna come si deve, per cui solo così ti puoi ascoltare. Ma comunque noi qui a Sassari già parliamo, già ci sentiamo tutti, bene o male ci sentiamo tutti. Avanti qua. Ciao, ti vedo Bacchiato, buonasera. No, Francesco ha detto, c'è il segnale basso come l'altra volta, poi a un certo punto si solleva, non ho capito perché. A noi sta arrivando Santiago 5. Anche a me mi sta arrivando lo stesso segnale, glielo ho detto poco fa. Santiago 5, del radio però già mi arriva bene. Del radio già lo sento bene. Poi, non lo so, se lui ha qualche cosa che attacca, quello lo saprà lui. Avanti Francesco. Io non so di cosa stai parlando, non capisco. Se questo apparecchio era difettoso, l'hai portato a riparare e te l'hanno restituito come prima. Sta al fatto che sei basso il segnale qua. Io ti ho sempre ascoltato oltre 9. Non so se sei liscio, se sei attaccato, non lo so. Comunque il segnale è molto basso. Vabbè, l'importante è che ci sentiamo. La radio va bene, quindi non c'è problema. Avanti Giulio, riprendi. Ok. Vabbè, dai, comunque. Io già lo sento. Sì, basso il segnale, d'accordo. Però già lo sento bene. Il radio è 5 qui da me. E il segnale è lo stesso, è 5. Per cui, vabbè, io sto usando baracchino, vecchissimo baracchino, per cui va bene così. Tra l'altro con il microfono anche normale. Ma è già tanto che riesci a sentirmi. Non fa niente, dai, va bene lo stesso. Avanti Francesco. Ok, aspetta un attimo di bianco. Va bene, no, per carità, io ti sento, quindi non me ne frega niente, ma è segnale. L'importante è che ti senta. Se non ti sentivo te lo dicevo, però sto dicendo che in altre occasioni ti ho sentito molto, molto più forte. Tutto qua, va bene. Sì, Giulio, 9:10, stai arrivando alla 10:05, non c'è problema, anche se col baracchino io ti sento bene, sono col 4:40, quindi ti sento magnificamente bene, non c'è problema. Riprendi. Ok. Sì, anch'io altre volte lo sentivo meglio, Francesco, però ci sono stati dei momenti che ho sentito anche Santiago 8, per cui andava bene. Ma va bene anche adesso, è interessante sentirti, poi che mi frega a me di riceverlo con segnale forte, non mi interessa. interessante che riesca ad arrivare in radio in maniera chiara, pulita, e va bene così. Poi tra l'altro anche questo non è che ha una grande ricezione, però ho questo baracchino, però lo sento abbastanza bene, Radio 5, no, non c'è problema. Non c'è problema. Chi era quello di Chiaramonti o Francesco? Poc'anzi che stavo parlando con te, chi era quello di Chiaramonti? Però sei passato, te lo volevo dire infatti, c'è solo tonalità basse, acuti non ne sento, per essere un Turner, non vedo gli acuti, non so, a quanto ce l'hai? Allora lancio a Giulio rispetto a Giulio, ma secondo me, correggimi se sbaglio Giulio, lì hanno cambiato qualche resistenza e hanno sbagliato l'impedenza, perché sì al massimo, non c'è nessuna preamplificazione, pensavo a avvisare un microfono normale, vai Giulio. Sicuramente è così, secondo cosa gli hanno fatto, soltanto sarà quello, sarà l'impedenza che gli hanno rovinato, anche lo sabo, l'hanno maggiorata troppo e per cui c'è con i toni bassi e non con i toni alti. Vabbè, certo che avere un danno e non uscire con i toni alti, insomma, è un po' critica la situazione. O è il baracchino che non funziona bene o il microfono, ma suppongo che sia il microfono. Poi tu stesso mi stai dicendo che è stato toccato, chissà cosa gli hanno fatto e allora ecco il risultato è quello. Però come il microfono normale praticamente, io non pensavo che tu avessi in questo momento il TAN in funzione. A me mi era sembrato un microfono normalissimo, senza nessuna differenza, insomma, ecco. Se non lo dicevi non l'avrei mai saputo. Per me era un microfono normale, perché sta funzionando praticamente da microfono normale, niente di più. Avanti Francesco. Lì due sono le cose, ho agganciato il circuito di preamplificazione perché il Turner io l'ho usato, basta che lo metti a 1, a 2 massimo e già sta amplificando anche troppo. Tu ce l'hai al massimo, stai usando per me un microfono normale da tavolo, né più né meno, capito? Quindi o non hai il circuito di preamplificazione agganciato o hanno sbagliato, hanno fatto qualche lavoro, hanno cambiato la resistenza, l'hanno messa con l'impedenza sbagliata. Altre soluzioni non ce n'è, oppure la capsula, non lo so, comunque, ma la capsula non incide, è un modo più assoluto. Lì c'è qualcosa sul circuito di preamplificazione sbagliato. E non ci sono dubbi, così è Giulio. Beh, sicuramente, chissà cosa hanno combinato, sai, quando uno ci mette le mani se non le sa le cose, è inutile che si metta lì a pasticciare perché non fa altro che rovinare, per cui non. Ma comunque, cosa volete dica? D'altronde così. Ah, ti volevo chiedere, Francesco, ma quello di Chiaramonti stava urlando dalla macchina però, perché non arrivava a Sassari? E appunto, io te l'ho chiesto perché io con Chiaramonti ci ho sempre parlato e ho sempre ricevuto anche la trasmissione, però questo non arrivava più, ho pensato ma forse è in macchina, infatti così mi stai confermando. Pazienza, ti prendi qua, dai io mi allontano un attimino, ma non sto scendendo di giù un attimo, che sa cosa vuole. Vabbè dai, riprendi qua, ritorno fra un po', dai. Ehi a Giulio, anch'io un paio di passaggi, poi vi lascio che mi organizzo il cane, vado a fare una passeggiatina, c'avevo la radio accesa, vi ho sentito e sono entrato a salutarvi. Avanti Francesco. Non mi stai parlando qua? Con Rosiro. Non arriva qua. Ci arriva Santiago 5 e 4, ho detto. Claudio. Ciao Francesco, dai, tante cose belle, grazie per le due chiacchiere. Ci riascoltiamo. Ok, chi è che mi ha chiamato? Chi è che ha chiamato Claudio? Chiamate pure, non rispondete. Chi è che ha chiamato Claudio? Luca. Luca. Eia, chi è? Ciao Daniel. Oristano, buonasera, ben ascoltato. Ma hai detto che stavi breccando poc'anzi? Ha sentito un break anche Rosiro, perché lui c'era la gola molto alta. Però pensavamo fosse qualcuno in macchina, capito Daniel. Ciao, buonasera, ben ascoltato. 5 5 segnale portiere da Oristano, come stai? Cappa Daniel, sì, io arrivo un pochino più forte qui in diretta, sei 5-5, io 5-7. Liscio liscio come l'olio, c'ho il 440, sto andando, te l'avevo già detto, è circa 50 watt, insomma, senza amplificatore, dai. 20 di portante, 50 modulati, queste sono radio un po' che spingono. No, ripeto, ho sentito poco fa sto break, ma siccome poc'anzi c'era uno in macchina, pensavo che fosse da qualche altra parte, Daniel, capito? Non pensavo fossi tu. E tu chiama, attento, Claudio Sparviero da Daniel di Oristano, così io ti rispondo subito. Vai, riprendi. Lima si era bravo, proviamo Daniel, dammi il tempo però, perché con questa radio devo uscire dal VFO memorie e devo mettermi qua a 27.075. Tu preparati, intanto io arrivo. Ok? Ok, ti chiamo io, dai, così mi regolo la radio. Se vuoi parlare con me presentati e chiacchieriamo, se no continua a fischiare. Luca,